Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là delle borse che sono tutte deboli ma non in maniera preoccupante, -0,31% Milano, -0,21% Parigi, -0,70% Francoforte, -0,45% Londra, -0,25% il Dow Jones. Dicevo, al di là delle borse, oggi ci occuperemo da un lato delle novità di politica economica, dichiarazione del ministro Fornero, l'intervista al Corriere della Sera, dichiarazioni oggi della presidente di Confindustria Marcegaglia, ma anche del leader della CISL Bonanni, di quello della CGIL Camusso, di nuovo l'articolo 18 che torna nel dibattito, ma anche di Spagna, che oggi ha varato una manovra finanziaria molto pesante, bloccando per gli statali praticamente le ferie, i ponti e quant'altro, di una vicenda che tratteremo che riguarda la Saab, dichiara il fallimento. Infatti la storica, il storico marchio automobilistico, fa anche aerei la Saab, però la parte auto dichiara il fallimento. E parleremo oggi, ce la facciamo finalmente, delle società italiane che si sono messe in evidenza come crescita di fatturato e utile nel settore dell'information technology, degli investimenti soprattutto in ricerca e sviluppo. E poi l'intervento di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, sta parlando adesso a Bruxelles, all'Europarlamento. Alcune dichiarazioni già le abbiamo, ma insomma il punto lo faremo alle 18.15. Il suo intervento terminerà infatti alle 18.30, ma riusciremo ad analizzare almeno il grosso, la maggior parte del suo intervento. Non ho novità, lo dico subito a chi scrive al 349-238-6666 sulla Banca Popolare di Milano e quel famoso investimento che abbiamo molto contestato, ce ne siamo occupati la settimana scorsa. Praticamente ha venduto negli anni scorsi una obbligazione che in realtà appariva come obbligazione, ma in realtà il sottostante era azionario. Molti questo non l'hanno capito, il prospetto era di difficile lettura secondo molti ascoltatori che ci hanno scritto. Era un convertendo, cioè tu compri un'obbligazione che però può essere convertita in azioni. Attenzione, perché il profilo, da quello che abbiamo visto, c'è la magistratura che sta indagando su questo, la Consob è già stata allertata ma non può fare molto. Il problema è che questo profilo, cioè un convertendo, un'obbligazione che si può convertire in azioni su volontà della banca, è per un profilo di rischio più alto di quello a cui spesso è stato venduto, per cui bisogna capire anche se veramente chi l'ha comprata avesse piena informazione di quello che capitava oppure no. Perché lo dico? Perché uno era convinto di comprarsi un'obbligazione BPM, adesso si ritrova con la banca che ha deciso di convertirla in azioni, dando il 90% in meno di quello che è l'investimento iniziale, cioè il 10% appena. Se hai messo 10.000 euro in quella che pensavi essere un'obbligazione BPM e non avevi capito, o perché il prospetto non era facile, o perché non te l'hanno spiegato bene, che si sarebbe potuta tramutare in un'azione, adesso perdi 9.000 euro e te ne rimangono 1.000. Non mi sembra il massimo come trasparenza. Attendiamo comunque di sapere se la BPM vuole intervenire anche su questo tema. Detto ciò, le notizie in breve. Partiremo appunto con la manovra in Italia, ma ci occuperemo anche e soprattutto di fenomeni all'estero. Volevo darvi subito i mercati, però di positivo c'è Azimut più 3,32% e Unicredit più 2,80%, Impregilo più 2,20%, Mediobanca più 2%, Snam più 1,15%, Terna più 0,70% come Campari, mezzo punto lo guadagna Fiat. Chi perde? Ansaldo CTS il 3,82%, la Popolare Emilia Romagna il 3,30% come Mediaset, il 3% lo perde Prismian, cioè l'ex Pirelli Cavi. Il 2,70% è il calo della Popolare di Milano, il 2,5% di Fiat e anche di Finmeccanica, il 2,20% quello del Monte dei Paschi, di Autogrill e di Ferragamo. Ancora UbiBanca -1,70% come Generali, 1,5% lo perde Steam Microelectronics, l'1,40% il calo di Atlantia e di Mediolanum. Ancora chiudiamo con chi perde l'1%, Saipem e Todds -1%, Enel Green Power -0,80%. Rapidamente la notizia in breve, però vi anticipo subito che domani e dopodomani, quindi martedì e mercoledì, in occasione della due giorni che Radio 24 dedica alla crisi, nel senso alle domande sulla crisi, alle parole della crisi, al punto sulla crisi, tutti i programmi praticamente impegnati in questo, Focus Economia sarà aperto anche eccezionalmente alle telefonate. Il numero verde per chiamare domani e mercoledì è come sempre 800 24 00 24. Le notizie in breve. Lo spread, c'è chi vuole sapere dello spread. Con il vecchio governo avreste aperto con lo spread. Sì, buonanotte. Vergogna, siete faziosi e basta. È questo atteggiamento che fa andare male l'Italia. Sì, io penso onestamente, caro ascoltatore, che sia il nostro atteggiamento a creare i problemi dell'Italia, non l'evasione record, non il, diciamo, la spesa per la pubblica amministrazione, la spesa corrente per la pubblica amministrazione, non l'assenza di misure per lo sviluppo, non l'eccesso di pressione fiscale sul lavoro, ma è appunto il fatto che non abbiamo citato lo spread subito che fa andare male l'Italia. E citiamolo però lo spread, perché una delle notizie di cui ci occuperemo oggi è risalito questa mattina prestissimo, prima dell'apertura dei mercati, sopra i 500 punti, addirittura 518 punti in apertura di borsa, con un rendimento al 7,05%. Ora continuiamo a dirlo, 470 punti o 500 punti, uno spread così non regge, il paese così non regge. Abbiamo tra fine febbraio e marzo 50 miliardi di debito da rifinanziare tra BOT e BTP, 50 miliardi rifinanziati con un interesse vicino al 7%. Qui mi fermo, se no mi devo dare il gufo da solo. Poi è tornato sotto i 490 punti, ma insomma siamo adesso a 490 punti. Quello tedesco, oggi è l'effetto soprattutto dell'abbassamento del rendimento tedesco, che è ai minimi dall'introduzione dell'euro. Praticamente i BTP a due anni italiani rendono il 5,16%, i BTP a due anni tedeschi rendono lo 0,21%, il che vuol dire che in questa crisi di attacco ai debiti spagnolo, italiano, lasciamo stare la Grecia, che chi se ne sta avvantaggiando tra virgolette è la Germania, perché riesce a rifinanziare il suo debito e a finanziare i prestiti con un tasso di interesse minimo, a minimo storico dai tempi appunto dell'introduzione dell'euro. E tra l'altro, insomma, questo per dire che poi la Germania, oltre che fare la faccia feroce e avere un atteggiamento a mio avviso miope in molte cose, non sbagliato in tutto ma miope come strategia, è l'unico paese che ci guadagna da questa crisi. Oro a 1583 dollari l'oncia, petrolio a 93 dollari il barile. Ancora della Saab parleremo, ha gettato la spugna, ha chiesto il fallimento dopo due anni di tentativi per salvarlo. La casa era fondata nel 1937, la racconteremo perché in Svezia la Saab, insomma, è un marchio che va oltre la semplice produzione di automobili. Ha 3.700 dipendenti, pensate che l'anno scorso è riuscito a vendere appena 32.000 veicoli contro i 50.000 previsti. Ma soprattutto da quasi 11 mesi la produzione è ferma, le vendite sono ferme, i pagamenti ai fornitori, per cui insomma il fallimento era a questo punto inevitabile. Interessante la domanda, su cosa viene confrontato il Bund tedesco? No, su niente. È come se immaginiamo lo spread essere il termometro della crisi di un paese, è come se l'obbligazione tedesca fosse il 36,5, cioè quella che è la temperatura corporea normale, e lo spread fossero tutti i gradi in più che tu hai. Quindi quando tu hai 38 gradi hai un grado e mezzo in più, adesso vado a spanne, rispetto alla temperatura corporea normale, 36,6 che fosse. Ecco, non c'è nessuno spread sul Bund tedesco, cioè il Bund è il riferimento su cui calcolare la differenza. Qualcuno scrive: beh, insomma, se la Germania ci guadagna non farà molto per cambiare le cose. Attenzione, la Germania in realtà avrà nel 2012 una frenata dell'economia anche peggiore di quella dell'Italia, se la guardiamo in rapporto. Cioè l'Italia invece che fare più 0,6 farà meno 0,5, meno 1,4 a seconda delle previsioni. La Germania invece che fare più 2,5 farà più 0,4, per cui la Germania va in stagnazione economica pura. Noi della stagnazione andiamo per ora a una debole recessione, per cui non è vero che la Germania possa fregarsene se gli altri paesi si bloccano. Il 60% dell'export tedesco va in Europa, e quindi non è un'isola la Germania. La Gran Bretagna sì, la Germania no. Considerato l'inflazione ci guadagna, è vero, perché se tu praticamente conviene alla Germania indebitarsi in questo momento, avendo un rendimento dello 0,21% i suoi BTP a due anni, essendo l'inflazione verso il 3,5%, ecco che a quel punto alla Germania conviene sostanzialmente indebitarsi, perché le costa meno indebitarsi che non mantenere i soldi. Allora, vedo che già molti sono eccitati sulle telefonate di domani, è solo martedì e mercoledì che lo faremo, non lo so se chiameranno anche per criticare, io vorrei telefonate, domande vere e proprie, se riusciamo a rispondere con i nostri ospiti, non è detto che ce la facciamo, sullo stato delle cose, sui dubbi che avete, se riusciamo a darvi delle spiegazioni, le polemiche non le faccio passare, quindi cioè, desistete. Gli acquisti di obbligazioni della Banca Centrale Europea sono in netto rialzo, 3 miliardi e 300 milioni di euro. Draghi poco fa ha detto che i prestiti continuano dalla Banca Centrale Europea alle banche per assicurare la liquidità alle banche, che le prospettive dell'area euro restano incerte e che l'inflazione resterà sopra il 2% per molti mesi. La Spagna, ce ne occuperemo dopo, un'altra manovra da 16 miliardi e mezzo di tagli nelle spese. Come austerità, addirittura lo ha ricordato il nuovo premier Mariano Rajoy nel suo discorso di investitura, a gennaio vi sarà anche l'ok come sulla regola d'oro sull'equilibrio di bilancio, cioè metteranno, come chiesto l'Europa nella Costituzione spagnola, l'obbligo di arrivare al pareggio di bilancio ogni anno, massimo scostamento un deficit dello 0,5%. Bloccate tutto il turnover nel pubblico impiego, bloccati i ponti del lunedì. Praticamente aboliti in Spagna la maggior parte dei ponti del calendario lavorativo annuale, viene spostato a lunedì la giornata di festa pubblica. E visto che parlavamo di Germania, un'ultima notizia sulla Germania: rallenta l'export, a dimostrazione di quanto ricordavamo prima. Nel 2012 è previsto crescere solo del 3% l'export tedesco, contro un più 8,5% come quota del commercio mondiale, che purtroppo rallenta anche il nostro di export. A ottobre ha fatto meno 3,2% rispetto a settembre di quest'anno, è positivo rispetto all'anno prima, ancora più 4,5%, ma anche questo è un segnale del rallentamento negli ultimi mesi dell'anno per l'economia italiana, non solo per tutta l'area euro. È il dato peggiore come rallentamento mese su mese dal 2009. E allora, prima di passare al primo tema, la piccolo appuntamento che abbiamo lanciato la settimana scorsa, raccontare la crisi anche con notizie che insomma ti fanno chiedere: ma cos'è sta crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, Londra, il Foreign Office, il Ministero degli Esteri britannico, sta mettendo a punto un piano per evacuare migliaia di britannici da Spagna e Portogallo se il sistema bancario di quei due paesi dovesse fallire. L'ha scritto il Sunday Times. L'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, da sempre una fortissima presenza di anche residenti britannici in Spagna e Portogallo. Circa 1 milione di britannici vivono in Spagna e Portogallo, molti pensionati, molti che hanno comprato le case negli anni d'oro, negli anni 2000, a Marbella e a Malaga. 50.000 invece i britannici in Portogallo, 1 milione in Spagna e 50.000 in Portogallo. E appunto il Foreign Office ha detto: attenzione, piano di evacuazione, manco fosse, capito, l'Iran, di migliaia di britannici da Spagna e Portogallo se il sistema bancario spagnolo fallisce. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E però anche la Gran Bretagna sta cercando di trovare, di grattare il fondo del barile per la crisi. Ricordo che la Gran Bretagna ha un deficit che viaggia al 9% del PIL, 9,5%, cioè roba che dentro l'euro non sarebbe consentita, e un debito che grazie al salvataggio delle banche britanniche, lo Stato britannico ormai viaggia vicino al 100% sul PIL del debito, cifra più italiana che britannica. Ebbene, Westminster sarà in affitto per i parti privati dei VIP. La Camera dei Comuni infatti ha messo in cantiere, il Parlamento britannico, un programma di nome bellissimo, Cash for Cocktails, contanti per il cocktail, che trasformerebbe il Palazzo del Parlamento nel più esclusivo club privato di Londra, con quota annuale da 2000 sterline per avere accesso agli storici locali, la spettacolare terrazza con viste sul Tamigi. E praticamente il Parlamento britannico spera di ottenere circa 53 milioni di sterline in 5 anni, quindi circa 11 milioni di sterline l'anno, 15-16 milioni di euro l'anno, dall'affitto dei locali per parti private, sacrificando anche alcuni storici privilegi. Però ha detto il Parlamento britannico, in un'epoca di austerity in cui anche i comuni, cioè la Camera dei Comuni, devono sudare sui propri bilanci, ci sembrava giusto farlo. Piccola proposta, e se lo facessero i nostri parlamentari, affittare il Senato e Palazzo Madama, ma con la buvette inclusa, con il menù del ristorante ai prezzi che conosciamo per feste private? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E adesso all'Argentina, dove praticamente si dice sempre l'odore dei soldi, o di romani dicevano pecunia non olet, i soldi non hanno odore. In realtà sembra che i soldi abbiano odore. In Argentina il fisco ha arruolato 50 golden retriever, che sono dei cani, come molti di voi sanno, in grado di fiutare i dollari e gli euro nelle valigie. Questo nell'ambito della lotta contro la frode fiscale. I cani vengono impiegati negli aeroporti all'imbarco delle navi, hanno già permesso il sequestro di 2 milioni e mezzo di dollari nel corso di varie operazioni doganali. L'iniziativa è stata in particolare assunta nel quadro dell'inasprimento della lotta all'evasione. Anche qui un riferimento all'Italia, e mettere al confine con la Svizzera i cani non antidroga ma antivaluta, antieuro? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E chiudiamo con l'Italia, dove da un lato i pendolari del Torino-Milano, della tratta Torino-Milano, hanno deciso di mettere le letterine sull'albero nella stazione di ferroviaria di Porta Nuova, dicendo: visto che i governanti e i politici non ci ascoltano, non resta che affidarsi a Babbo Natale. Nella lettera chiedono meno tagli, maggiori investimenti a favore del trasporto pubblico su rotaia, come dargli torto. Ma questo è un paese strano, perché i pendolari vivono spesso una situazione da carro merci, da carro bestiame. Però come sui giornali nel fine settimana, quando la Guardia di Finanza va a accertare i poveri, sappiamo che ci sono quasi la metà di italiani che hanno redditi, dichiarano redditi su 18.000 euro lordi, 7 milioni i poveri relativi, non i poveri assoluti. Ebbene, la Guardia di Finanza, su 14.000 famiglie controllate nei primi 10 mesi di quest'anno, 4.000, cioè quasi una su tre, aveva dichiarato di essere sotto la soglia di povertà, ma era tutt'altro che povera, era ricca. E al di là del danno sul fisco e per le casse dello Stato, faccio notare l'indecenza di questa cosa, perché significa anche beccarsi le agevolazioni per gli asili, le agevolazioni per il parente anziano, le agevolazioni e i sussidi per la scuola, tutto quello che dovrebbe andare ai veri poveri e non ai finti poveri, veri evasori. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, la manovra, avete visto, insomma, anche sui giornali, il ministro Fornero in un'intervista a Corriere della Sera ha detto basta contratti da precari ai giovani, un ciclo di vita che funziona è quello che permette ai giovani di entrare nel mercato del lavoro, e sull'articolo 18 non ci sono totem, sono favorevole al contratto unico. Reazioni oggi, Elisabetta Fiorito è in collegamento con noi da Roma. Elisabetta, buonasera. Buonasera Sebastiano, ancora fortissima l'eco delle parole del ministro del welfare Elsa Fornero, che abbiamo detto ha lanciato la fase 2 del governo, quella relativa alla riforma del mercato del lavoro e, come dicevi tu, nessun totem sull'articolo 18. E allora, favorevole a discuterne è il presidente di Confindustria Emma Mercegaglia, sentiamo cosa ha detto. Noi siamo assolutamente a favore di una trattativa seria, pragmatica sul mercato del lavoro. Noi ovviamente ci siederemo a questo tavolo con la volontà di lavorare e collaborare. In una situazione come questa credo che, appunto, come ha detto il ministro Fornero, non ci sono più totem, non ci sono più tabù. La situazione italiana è una situazione complessa e il mercato del lavoro è una di quelle riforme che vanno affrontato per tornare a crescere. Come era invece prevedibile, strappo con i sindacati, rapporti molto tesi dopo il no alla riforma delle pensioni, CGIL, CISL e UIL dicono anche no a qualsiasi riforma dell'articolo 18, critiche proprio anche sul ministro Elsa Fornero, sentiamo il segretario della CGIL Susanna Camusso. Lo dico un po' brutalmente, ma penso che sia la cosa da dire. Bisognerebbe scendere dalle cattedre e dai modelli teorici e provare a misurarsi con il paese reale. Il paese reale è fatto di disoccupazione di lunga durata e quindi di tanti che non hanno più nessuna indennità. È fatto di tanti giovani e non solo giovani precari che tra un lavoro e l'altro non hanno continuità di reddito. È fatto di una cassa integrazione in deroga di cui servono i finanziamenti per poterla proseguire. Allora, i temi del mercato del lavoro sono questi. Come si garantisce un reddito, una continuità di reddito alle persone in una stagione che, in attesa della ripresa, continua a veder diminuire i posti di lavoro. Come lo si fa? Con civiltà. E allora l'articolo 18 è una norma di civiltà, è quella che impedisce la discriminazione, è una manovra che ha una funzione di una norma che ha una funzione di deterrenza per tutti. Io credo che un paese civile e democratico non può rinunciare alle forme di civiltà e di nettezza sul fatto che non ci può essere la discriminazione. Le priorità sono altre, secondo Raffaele Bonanni della CISL. Sembra che si voglia aizzare la gente alla protesta e solo alla protesta, ma non è questo quello che doveva fare un governo tecnico. Io sono davvero molto preoccupato per quello che sta accadendo. Non è passato 12 ore da una manovra che già si aizza su un'altra vicenda che, si sa, ha procurato sempre divisioni, difficoltà, su un assunto che il mal comune è mezzo gaudio, che se i giovani vedono quelli più anziani perdere più facilmente il lavoro, loro si sentono meglio, ed è un'impostura vera e propria. La precarietà, io l'ho detto sempre, la precarietà è il frutto di una flessibilità pagata male. Allora il governo si renda disponibile a pagare di più il lavoro flessibile. Ecco, sentiamo proprio la protesta dei sindacati che continua, è sempre più scontro con il governo. Ricordiamo poi che Elsa Fornero aveva proprio detto sia un contratto unico per combattere il precariato e magari non garantire al 100% i contratti a tempo indeterminato, ma i sindacati si sono riuniti di nuovo, sono ancora coesi. Sentiamo Luigi Angeletti della UIL. Noi non siamo di coloro che intendono rassegnarsi ad una serie di scelte di politica economica e sociale che, secondo noi, invece di risolvere i problemi li aggraveranno, a cominciare da quello dell'occupazione. Il governo, secondo noi, sta del tutto trascurando la prospettiva seria, purtroppo, che avremo, quella di un aumento del numero di disoccupati. E mentre si è molto impegnato nel togliere un po' di soldi dalle tasche dei lavoratori attraverso una marea di tasse e anche da quelle dei pensionati soprattutto, non si preoccupa per nulla degli effetti che tutto ciò comporterà. Beh, Elisabetta, insomma, è netta la reazione dei sindacati. Devo dire, insomma, che forse, visto che la manovra è ancora in discussione, ancora calda, le ferite comunque, i tagli che crea sono ancora, diciamo, vive, forse tirano in ballo l'articolo 18. Facciamo aspettare, no? Facciamo digerire al paese sta manovra, non poniamo sempre, anche perché è una manovra che è rimasta confermata sulle pensioni, sull'ICI, cioè sulle tasse in più, e invece il governo ha ceduto in maniera, a mio avviso, troppo rapida sulle liberalizzazioni, sulle categorie forti, sugli avvocati, sui farmacisti, sui notai. Sarebbe veramente sgradevole se questo governo desse l'impressione di essere duro con i deboli e debole con i forti. Ripeto, grazie Elisabetta Fiorito. Adesso c'è il meteo, la pubblicità e poi ascoltiamo altre dichiarazioni, non solo quella del ministro Passera ieri nel programma di Fabio Fazio, la trasmissione Che Tempo Che Fa, ma anche quelle di Silvio Berlusconi oggi a margine del processo Mills. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco arriviamo alla borsa. Ripeto, si può discutere di tutto, mi riferisco all'articolo 18, se volete, insomma, il tempismo del ministro Fornero, che in un'intervista Corriere della Sera, appena ancora calde le polemiche sull'età pensionabile, dice non è un tabù e nel giorno dello sciopero del pubblico impiego riapre il tema dell'articolo 18, non mi sembra un tempismo così esaltante, tutto qua. Anche perché sul governo, ripeto, pesa il tema delle liberalizzazioni mancate, ma non tanto le liberalizzazioni mancate, la retromarcia fatta in maniera così precipitosa prima ancora di essere assaliti sulle liberalizzazioni delle farmacie, degli ordini professionali e quant'altro. Allora, ripeto, speriamo che non sia un governo forte con i deboli, cioè con la massa indistinta dei contribuenti, e debole con i poteri forti, e chi vuol capire capisce. E andiamo allora su Corrado Passera, ieri alla trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, sostanzialmente prima di ricordare la parte che riguardava la sua quota i suoi titoli in Banca Intesa San Paolo, ha parlato proprio di liberalizzazione definendosi arrabbiato. Non finisce qua. Allora, innanzitutto nel decreto ci sono delle cose clamorose positive: il rafforzamento dell'antitrust, la nuova authority sui trasporti, la liberalizzazione di orari e licenze nel commercio, la conferma di agosto come data limite per la liberalizzazione delle professioni, cose fortissime, cose peraltro incominciate da governi precedenti, in molte cose noi stiamo completando cose che c'erano, in altre case no, per cui cose importanti. Poi un paio di cose non sono ancora andate dentro. Il caso dei farmacisti è emblematico ed è stato veramente un grande peccato, ma anche da parte loro. Era una liberalizzazione pensata giusta, molto limitata, che dava spazio alle parafarmacie, che dava spazio a giovani. Ma era vuol dire che è finita così? No, no, no, no, no. Ci torniamo. Speriamo che non sia finita qui. Speriamo che si mettano in concorrenza i settori, che si mettano in concorrenza le farmacie, cioè che ci sia con quello che c'è in molti altri paesi, dove al centro è il cittadino cliente e non sempre la categoria X o la categoria Y. Cioè noi siamo sempre più preoccupati di tutelare i commercianti, i farmacisti, i tassisti, gli edicolanti, i giornalisti, gli avvocati, i notai, così, e nessuno tutela mai il cittadino che poi non ha servizi in concorrenza, ha gli orari bloccati, adesso lo dico anche agli edicolanti. Va bene tutto, ma è possibile vivere nel 2012 in un paese in cui la domenica dall'1:30 in poi non si compra più un giornale perché tutte le edicole da Milano a Venezia a Napoli, tranne che in alcuni rari casi, chiudono tutte? Allora, no? Iniziate anche voi a flessibilizzare gli orari. O uno deve per forza sottostare ai vostri orari, quando sembra quasi che faccia un piacere uno a comprare il giornale o andare dall'avvocato o a trovare un commercialista o a trovare una farmacia, dai su. È arrivata la Fornero poco fa, il ministro Fornero ha detto attenzione sull'articolo 18, rammarica e preoccupa la reazione dei sindacati, pronti al dialogo ma senza preclusioni, non so, e magari stare zitti, lo dico con massimo rispetto ministro, non citare il caso, parlarne prima con i sindacati visto che oggi c'era lo sciopero del pubblico impiego, rammarica e preoccupa la reazione dei sindacati, ma che reazione immaginava il ministro Fornero avrebbero avuto la CGIL e la CISL e UIL quando torni sul tema dell'articolo 18, non perché non se ne possa parlare, ma almeno non ma almeno non si sorprenda, no? Sentiamo invece di nuovo Corrado Passera per quello che riguarda i suoi titoli in Banca Intesa, cioè l'intenzione di vendere le azioni che ha di Banca Intesa. Il conflitto di interesse non c'è perché so che non c'è, però capisco benissimo. Non era mia intenzione fare quello che adesso le dico, ma siccome una persona come lei mi ritira fuori sto tema, io le dico, guardi, anche se ci sarebbero dei meccanismi per rendere neutra questa cosa, le vendiamo e basta, cioè togliamoci il dubbio, è una disgrazia, è sbagliato, non è una cosa, cioè, che venderà, venderà le sue azioni? A questo punto venderò la mia azione, per colpa mia? Non ne parliamo, no, no, per merito suo. Brutta questa. Allora, a parte il fatto che comunque si può apprezzare che uno chiarisca subito il tema, pur non essendo obbligato da nessuna legge, Corrado Passera va ricordato a vendere le sue azioni. Il punto è una disgrazia, io penso di sapere perché lo dice Corrado Passera, perché vendere, come per tutti gli azionisti, le azioni di Intesa San Paolo a questi livelli di prezzo, oggi quota 1,22€, significa andare a perderci rispetto a quotazioni future. Però io dico, intanto apprezzo il gesto, visto che in questo paese tutti parlano di conflitto di interessi ma pochissimi si muovono per risolverlo, almeno vendere così i titoli subito, dichiararlo, ben venga, non me ne frega nulla se è un atto mediatico, una volta che li vende quella è la sostanza. E poi le frequenze TV, un tema non toccato dal governo, l'asta sulle frequenze, l'accusa che vengono regalate, e di fatto è così, a Mediaset e alla RAI. Allora, due opinioni diverse tra il ministro Passera e l'ex primo ministro Berlusconi. Sentiamo Passera ieri sulle frequenze del digitale. Probabilmente le ragioni di mercato, tecnologiche, che hanno portato a questa decisione del Beauty Contest si sono molto modificate nel corso degli ultimi 2-3 anni. E di fronte a una situazione di richiesta di sacrifici forti a tutti gli italiani, pensare che un bene raro e comunque prezioso e pubblico soprattutto, no, un certo, bene pubblico, certo, un bene dello Stato, un bene a disposizione dello Stato, possa essere dato gratuitamente, è probabilmente non tollerabile. Quindi non lo tolleriamo. E quindi verosimilmente non lo tollereremo. Detto questo, dovremo trovare insieme il modo giusto per usare al meglio queste cose, perché non è detto che siano frequenze da utilizzare per la televisione, possono essere per nuove tecnologie, può darsi che non servano adesso, servano in futuro. Bisognerà insieme pensarci, perché il processo attraverso il quale il Beauty Contest è stato fatto è un processo molto rigoroso, c'è di mezzo l'Europa, l'autority, delle leggi, eccetera. L'esito complessivo oggi che porta a quella situazione che diceva lei, bisogna affrontarlo. Oggi invece è diversa l'opinione del dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi, ascoltiamolo, insomma, a una pausa del processo Mills sulle frequenze. Il costo di una frequenza oggi è assolutamente superiore a quello che se ne può ricavare. Lo dico però da osservatore esterno, io non credo che ci sia nessuno che sia particolarmente interessato a un investimento per ottenere una frequenza. Così Silvio Berlusconi, la parte che riguarda la manovra la ascolteremo nella seconda ora del programma. Qualcuno critica sulle edicole, gli orari dell'edicolante. Ho capito, sto solo dicendo che si può organizzare in modo tale da rendere un servizio al cittadino cliente, per cui avere alcune edicole anche la domenica aperte la mattina e altre aperte il pomeriggio, come o altri luoghi per comprare il giornale, come tutti in tutti gli altri paesi europei, dove se devi comprare il pane o il latte non devi sottostare agli orari uguali per tutti dei commercianti, ma lo trovi anche alle 10 di sera come lo trovi alle 8 di mattina. Cioè, questo capita nel resto d'Europa, Traffico, poi la borsa e poi il resto della giornata economico-finanziaria. Alcuni dicono, ma lei oggi chiosa troppo, commenta troppo. Vabbè, sennò che faccio? Lancio tutti i file e me ne sto zitto. È un'ipotesi, lavoro anche meno. Traffico. 17:49 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vabbè, alcuni dicono: ma noi vogliamo le notizie? No, di solito qua di cosa parliamo? Del tempo, va bene, vi faremo una carrellata di voci prive di commento. Al di là delle battute, la borsa oggi meno 0,16%, Milano alla fine migliora anche nel finale di seduta, così come migliora Parigi che chiude invariata, e anche Francoforte riduce il calo a uno 0,54%, Londra meno 0,50%, l'America meno 0,50%, euro a quota 1,30 e 15. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, le banche andavano, non andavano male, poi mi sembra che la situazione sia cambiata radicalmente. Popolare di Emilia-Romagna meno 3,80%, Popolare di Milano meno 3%, Monte dei Paschi meno 2%, UbiBank meno 1%, ho dimenticato sicuramente qualcosa, Popolare di Milano meno 3, l'ho detto, vanno meglio di altre, Intesa San Paolo più 0,33%, Banco Popolare più 1,30%, Unicredit più 2,20% e Mediobanca più 1,86%. C'è una biforcazione netta. Sì, esattamente. Le banche erano più o meno partite tutte bene in mattinata, cercando di recuperare dopo la recente debolezza. Poi sul finale, se da una parte le big hanno resistito, in particolare Unicredit più 2,2%, come ricordavi tu, quasi tutte le altre hanno perso terreno. L'incertezza comunque rimane alta in attesa del vertice dell'Eurogruppo, le cui conclusioni sono attese in serata. Naturalmente gli operatori cercano di capire quali potranno essere i prossimi passi per la soluzione, per affrontare la crisi del debito. Sul finale le borse e anche appunto molti titoli delle banche hanno perso terreno dopo le parole del Presidente della BCE Mario Draghi, che ha parlato di elevata incertezza sia sulle condizioni dei mercati finanziari sia sulle prospettive per l'economia, e questo diciamo ha dato il tono al finale della seduta. Allora, per quello che sul fronte bancario, appunto, movimenti soprattutto nella pattuglia che ricordavo all'inizio, e tu hai fatto bene a ricordare la Fondazione Monte dei Paschi, l'accordo con le banche creditrici, resta sicuramente un'incertezza. Fiat, dati sulle matricolazioni che ogni tanto arrivano a scoppio ritardato, comunque oggi il mercato ne prende atto. Sì, esattamente, i dati erano stati resi pubblici il venerdì, il calo delle immatricolazioni di Fiat a livello europeo era stato decisamente superiore a quello del mercato, meno 11 contro il meno 3,5, e oggi appunto il titolo ne prende atto, scende del 2,1%, è andata meglio almeno per gran parte della seduta Fiat Industrial, che sì, è riuscita anche a chiudere in positivo, anche se soltanto di uno 0,57%, ma naturalmente dopo i dati sulle vendite oggi gli investitori hanno penalizzato il titolo della casa del lingotto. Ancora Mediaset, qui abbiamo appena ascoltato la differenza di vedute tra il ministro Passera ieri e l'ex presidente del Consiglio Berlusconi oggi. Mediaset perde parecchio, meno 3,20%, ma può essere che c'entrino le frequenze sul digitale, il beauty contest? Ma secondo gli operatori sì, è proprio questo il tema di incertezza, è proprio l'ipotesi che sembra farsi strada nel governo di annullare il beauty contest e procedere a un'asta competitiva sulle frequenze, penalizza il titolo Mediaset, anche se appunto oggi abbiamo sentito l'ex presidente del Consiglio Berlusconi dire che non ci sarebbero operatori interessati in caso di asta competitiva. Secondo alcune indiscrezioni, il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera potrebbe star pensando di coinvolgere anche operatori di TLC in questo procedimento. Naturalmente comunque rimane questo fatto aumenta l'incertezza sull'assegnazione delle frequenze e quindi penalizza il titolo Mediaset al momento. Ancora, Salvatore Ferragamo, debutto oggi nell'S&P MIB, cioè nell'indice principale dei titoli a maggiore capitalizzazione, debutto, era difficile andare in controtendenza, però qualcuno ce l'ha fatta, penso a Azimut più 3,80, oltre alle banche citate Impregilo più 1,50, Snam più 1,20, Terna più 0,90, Campari più 0,70, 2A più 0,60 come Fiat Industrial, Exor più 0,40 come Buzzi Unice Metenaris, Intesa più 0,30 come Eni. Però Ferragamo no, nel senso che il titolo ha perso l'1,60%. Sì, esattamente, era partito positivo in mattinata, proprio nella prima giornata sul FTSE MIB, poi ha chiuso, come ricordavi tu, a -1,6, anche se c'è da dire che è dopo, nelle ultime settimane, dopo l'annuncio del prossimo ingresso nel FTSE MIB e quindi la prospettiva di un aumento di visibilità e anche di peso nei panieri dei vari investitori, il titolo aveva guadagnato parecchio terreno, quindi oggi diciamo che è una flessione soprattutto legata a motivi tecnici. E comunque appunto il debutto nel FTSE MIB si chiude con un -1,6%. Due titoli ancora, Fondiaria Sai e Impregilo. Sì, per quanto riguarda Fondiaria Sai, che è proprio il titolo che è uscito dal FTSE MIB per far posto a Ferragamo, oggi ha guadagnato il 5,1%, sul titolo c'è, rimane alta l'incertezza su ipotesi di nuovi aumenti di capitale che sarebbero necessari per rafforzare la compagnia, sul tema è previsto un consiglio di amministrazione venerdì, ma oggi l'indiscrezione che fa salire il titolo è quella di un possibile interesse del fondo Sator di Matteo Arpe ad entrare nel capitale della compagnia. Dalla Popolare di Milano a Fondiaria Sai, esattamente. Okay. Queste sono le possibili voci, in BPM non le è andata bene, chissà che non vada in porto qui, mentre per quanto riguarda Impregilo il titolo è salito dell'1,5%, in questo caso sono le prospettive su un possibile riassetto dell'azionariato, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il gruppo Gavio avrebbe rivisto all'avvio l'offerta presentata alla famiglia Ligresti e alla famiglia Benetton per rilevare le quote di Igli, che è l'azionista di controllo di Impregilo, valorizzando il titolo Impregilo 3,6 euro per azione anziché 3 euro, teniamo conto che oggi in borsa viene scambiato a 2,2 euro, inoltre i costruttori, l'altra società di costruzioni Salini, che è nel capitale di Impregilo, sembrerebbe interessata a proporre un'integrazione proprio con Impregilo e quindi queste offerte contrastanti e queste prospettive di riassetto hanno sostenuto il titolo in borsa. Allora, i migliori e i peggiori per quello che riguarda la borsa, no, sorrido per due sms che adesso leggo, Juventus più 20%, campionato, di mail più 14,5%, Banco di Sardegna sul risparmio non convertibili più 10,5%, Cresef più 10%, Best Union più 9,90%, i peggiori, Meridiana Fly meno 8,70%, Arena meno 8,70%, Tesmec meno 7%, grazie a Paolo Paronetto, Radio Colli, Sole 24 Ore. Adesso parleremo di Sabe di Spagna dopo il GR, c'è uno ascoltatore che dice lei è una testa di spread, non male come insulto, e c'è chi dice Barisoni si limiti a fare il suo lavoro, legga le notizie e non faccia commenti, e ha deciso lei che questo è il mio lavoro, non lo so, da conduttore a speaker, va benissimo. Dai, ne parliamo dopo, parliamo di temi invece di questa giornata dopo il GR, 349-238-6666 per gli sms. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Ripeto, domani e mercoledì il programma aprirà, perché Radio 24 è tutta dedicata allo speciale crisi, dando risposte agli ascoltatori, risposte più possibile concrete, ma anche analisi da domani mattina fino a domani sera. Aprirà, dicevo, questo programma alle telefonate, il numero sarà il solito per telefonare a Radio 24, 800 24 00 24, telefonate il più possibile concrete, un augurio, e il meno possibile polemiche, ma non importa. Ancora per quello che riguarda gli aggiornamenti, qui veniamo purtroppo a notizie molto serie. Poco fa Sky News ha battuto la notizia che la Gran Bretagna si rifiuta di contribuire al fondo del Fondo Monetario Internazionale di salvataggio dell'euro. I fondi sono due sostanzialmente, uno è quello dei paesi europei e l'altro IFS, European Stability Fund, e l'altro Financial Stability Fund, e l'altro invece è quello del Fondo Monetario. Ebbene, Londra non vuole partecipare a quello del Fondo Monetario, che vale 200 miliardi di euro nel suo complesso, e quindi la partecipazione britannica, i 30 miliardi di euro, stando a quanto dichiarano le agenzie, per meglio dire Sky, non vi sarà. E questa non è una cosa, diciamo, che ci fa piacere e che andrà a tranquillizzare sicuramente i mercati. Ancora sugli edicolanti, la chiudo qui, però non ho mai detto che vadano colpiti, né che non sia un lavoro stancante, ho solo detto che come per le edicole e per altri servizi commerciali negli altri paesi europei c'è molta più flessibilità negli orari e al centro è sempre il cliente, non l'esigenza dell'esercente. È un cambio di cultura, di mentalità. Da noi invece la singola categoria alza sempre le barricate, le liberalizzazioni sono sempre quelle che devono fare gli altri. È inutile dire anche voi provate a stare sul mercato, dove siamo, scusatemi, se lei vuole cambia con un ditino il canale e ascolta un'altra radio. Questo è il mercato della concorrenza. Crisi dell'auto questa volta in Svezia, fallisce lo storico marchio, la Saab, era già in acque iper tormentate e agitate, però oggi la notizia è ufficiale, il fallimento della Saab. C'è un bellissimo sms al 349-238-6666 che dice: e Barisoni si rilassi, tanto il 21-12-2012 finisce tutto. E il 21-12-2012 è il nostro gufo organizza una festa, un veglione con tutti i suoi amici. Vabbè dai, scherziamo ogni tanto. Professor Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Barisoni. Allora, la Saab getta la spugna, dichiara il fallimento, 2 anni di tentativi per salvare la casa automobilistica svedese, non c'è stato niente da fare. L'anno scorso ha venduto 32.000 veicoli contro i 50.000 previsti, e tra l'altro fu acquisita nei primi anni 90 dalla General Motors. Sono 3.700 dipendenti in Svezia, ma ormai non pagava più fornitori. Ecco, il declino di un marchio storico, insomma, cioè nel 1937 viene fondata, ma la Saab era sinonimo, insomma, di sicurezza, innovazioni tecniche. Se lei dovesse in 2 minuti, mi rendo conto che non sia un'operazione facile, raccontarci come si passa da essere la macchina più sicura e solida del mondo a una macchina che non si vende? La tecnologia è diventata un patrimonio diffuso. Saab era nel 1970 ancora una vettura che aveva inventato il motore turbo compresso. Ricordo che con un motore 2000, chi ha posseduto, io ne ho posseduta una, la 900 con la versione 16S aveva a disposizione 190 cavalli, che era a quel tempo la potenza di una Porsche 911S da 2003, quindi vettura d'avanguardia che sfrecciava velocissima. Poi aveva una concezione tecnica con la carreggiata anteriore molto più larga di quella posteriore, quindi ideale per viaggiare sul bagnato, sulla neve, sul ghiaccio. Quando queste situazioni diventano patrimonio di altre case, come quando Saab nel 90 e poi con l'ulteriore acquisizione del 49% tutta nel 2000 passò a GM, tutto questo venne cancellato, o meglio, GM si appropriò della tecnica della turbocompressione che adattò ed estese a vari motori GM, particolarmente Opel, ma la tecnica Saab non diventò più quella, perché oggi si sopperisce non con caratteristiche di telaio, magari con l'EBD, con altri provvedimenti, a caratteristiche geometriche che un tempo erano esclusivi. Mancando questa esclusività, il prodotto non può tenersi con dei numeri quali quelli che lei ha detto. Nel 2011 non abbiamo il dato, ma il dato medio di questo mercato italiano è ad esempio di un numero semiclandestino di Saab. Nel 2011 sono state 23, sono numeri inferiori 23. Al ritual. 23? Sì, 23. Allora, lancio un appello, chi ha comprato una Saab nel 2011? No, parliamo del novembre 2011. Novembre 2011, insomma, chi ha una Saab comprata quest'anno? Con la produzione che da marzo è sospesa. Però mi scusi, Malagodi, qui il tema è serio, perché questo vuol dire che finisce anche l'assistenza per chi ha questa macchina? Ma questo è un serio problema, perché finché la rete apparteneva alla rete GM e attraverso Opel si poteva pensare, ma era stata tentata una riorganizzazione della rete distributiva poco riuscita, perché la Spyker olandese, la precedente proprietaria, non dava certo garanzie a concessionari che volessero impegnarsi con dei programmi Saab, per cui può diventare davvero un serio problema. Poi arriveranno i cinesi con i loro ricambi fatti in un qualche modo per coprire, se c'è una domanda di ricambi Saab, quel mercato, però certamente diventa un problema. E quindi, insomma, lei ha detto, se dovessi dare un titolo, dalla non si fa più sulla carrozzeria, l'innovazione tecnologica ormai da anni si fa su quelli che una volta erano chiamati optional interni, cioè sulla parte interna. E lì la Saab, che era forte sulla carrozzeria, sulla sicurezza, appunto la macchina più sicura al mondo, questo era il motto, lo slogan, ha perso colpi. Saab era una marca che negli anni 70 in Italia e in Europa, 70-80, aveva una quota dell'1%, molto simile a quello che oggi ha Volvo, con una produzione di 250.000-300.000 unità all'anno, produzione significativa che andava per buona parte in Europa, ma per 50-60.000 unità negli Stati Uniti. Certo. Oggi tutto questo viene a mancare e l'ultimo tentativo di passare la mano a una cordata cinese con questa Young Man eccetera è fallito, perché la GM non accetta più di dare fornitura senza essere pagata, perché il principale fornitore delle attuali vetture Saab, la 9.3 e la 9.4, era GM, che da marzo dice io sospendo le forniture. Beh, insomma, difficile dare torto a un fornitore che sospende le forniture perché non viene pagato, anche se si chiama General Motors. Grazie a Paolo Malagodi, appunto editorialista del Sole 24 Ore, appunto esperto di economia e trasporti, Università di Ancona. Liberalizzazioni. Devo dare ragione sicuramente a due ascoltatori. Uno che dice anche i servizi comunali, quelli regionali, provinciali, statali devono essere liberalizzati. Ha assolutamente ragione. Quindi flessibilità negli orari, non obbligare la gente a chiedere i permessi al lavoro per riuscire a portare certificati. Le liberalizzazioni valgono per tutti, la flessibilità negli orari vale per tutti. E sono d'accordo con lei, così come c'è qualcuno che voleva sapere. E adesso l'ho perso, vabbè, ve lo ritroverò, perché era un messaggio molto bello sulle liberalizzazioni, che la diceva lunga sul paese ancora imbrigliato. Infine, altri vogliono sapere se riavremo l'astrologa. Beh, sì, anche per fare confronto con quello che ha detto venerdì prima del Natale, ci racconterà le previsioni delle stelle, degli astri sulla borsa. Traffico. Di nuovo in diretta un altro ascoltatore sulla vicenda Saab, dice: ma insomma, la General Motors ha preferito far fallire la Saab piuttosto che farla comprare ai cinesi. Diverso il caso invece della Ford Volvo. Sì, ripeto, è da gennaio che Saab non paga fornitori e creditori. Adesso non conosco così nel dettaglio la situazione, però se un'azienda smette di fornirti pezzi perché non la paghi, è difficile dire che c'è solo un complotto dietro. Comunque, dalla Svezia alla Spagna, sempre per essere inizio, ma qui il caso è molto diverso. Si insedia il nuovo premier spagnolo Mariano Rajoy ed è subito un piano di lacrime e sangue. Nel frattempo ho ritrovato il messaggio sulle liberalizzazioni. GPL e metano impossibili da fare la notte di domenica. Non esiste ancora il self-service, all'estero c'è da anni. Bravissimo. E poi la concorrenza tra distributori di benzina, che sappiamo essere così una chimera delle volte. Vabbè. La Spagna, Luca Veronese, Sole 24 Ore. Buonasera, Luca. Buonasera a tutti. Domani il voto di investitura del nuovo premier Mariano Rajoy, spero che si pronunci così, no, non si pronuncia così, mi dicono dalla regia, adesso Rajoy, scusate, e però il piano che ha annunciato vale 16 miliardi e mezzo di tagli dove e soprattutto come? 16 miliardi e mezzo di tagli tutti nel settore pubblico, blocco del turnover, riduzione delle agenzie, degli enti parastatali e statali, e poi sicuramente verrà messa mano alla sanità. Già è prevista una cosa che si chiama nuova definizione dei servizi essenziali per i cittadini, vuol dire insomma che verranno ricalibrate tutte le spese pubbliche che riguardano questo aspetto. E poi l'ultima delle tre che stiamo ricordando, misure principali, un grande accordo con le regioni autonome che sono in questo momento il buco del deficit, diciamo, hanno i conti fuori controllo, e Rajoy promette e è in grado, vista la maggioranza che ha sia a livello nazionale che nelle regioni, di raggiungere un accordo per contenere il deficit locale, che sarebbe in parte la soluzione dei guai della Spagna di questo momento. Lo può fare di nuovo controllando la spesa per la sanità e dei trasporti locali e altre cose, insomma tagli un po' dappertutto tranne che nelle pensioni, che è l'unica voce invece. E devo dire che anche sul fronte tasse non le ha aumentate Rajoy, no? No, come promesso, almeno per il momento, anzi è previsto qualche lieve sgravio per le assunzioni di giovani e anche agevolazioni che sappiamo che per le imprese sono importanti, come il pagamento dell'IVA solo una volta che si è ricevuta la fattura, insomma alcuni aggiustamenti in linea con quanto aveva, devo dire, promesso durante la campagna elettorale. Non alzerà le tasse, l'ha confermato dopo la domanda che ha avuto nel dibattito alla Camera oggi con l'opposizione, non farà tagli, non alzerà di un euro le tasse, e però ci saranno tanti tanti tagli che ancora devono essere definiti per bene, ma che andranno a colpire molto molto i cittadini. E poi la riforma della televisione pubblica, aboliti i ponti, le feste, tutte quante lunedì. Sentiamo un passaggio di questo del discorso di investitura del nuovo premier Rajoy. Detto giusto, Rajoy. En el marco de este Real Decreto Ley, además de garantizar las medidas... Nel comporre questo decreto legge reale, oltre a garantire gli strumenti necessari per assicurare la buona e coerente gestione sia dell'amministrazione statale che della politica economica, il governo darà attuazione a uno dei suoi maggiori impegni elettorali. Mi riferisco all'attuazione del meccanismo di aggiornamento delle pensioni con l'indice dei prezzi al consumo a partire dal 1 gennaio 2012. E questo, signori, è l'unico annuncio sul fronte della spesa che mi sentirete fare oggi. Ripeto, l'unico impegno di aumento di spesa che ascolterete nella giornata odierna. Insisto, l'unico ed esclusivo. Insisto, signorias, è l'unico ed esclusivo. Beh, la differenza, Luca Veronese, senza voler fare commenti, ma con la manovra nostra è molto, molto netta. Rajoy ha detto l'unico aumento di spesa sarà quello dell'aggiornamento, dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita, tutto il resto lo tagliamo, 16 miliardi e mezzo di tagli nel pubblico impiego, nel settore pubblico, blocco del turnover degli statali, tranne il settore sicurezza, ponti, riforma della TV pubblica e quant'altro, e non va a toccare le tasse. Sarà sufficiente questa manovra in Spagna? Che il deficit è al 6%. Sì, il deficit sarà probabilmente anche al 7%, viste le proiezioni che stanno facendo proprio nell'entourage di Rajoy, perché il 6% era previsto prima delle ultime bufere sui mercati di quest'estate, poi dell'ultima parte dell'anno, e devono recuperare, come del resto l'Italia, un bel po' di... almeno una decina di miliardi che se ne sono andati con il costo del debito. E quindi si parla di una manovra che sta definendo e che verrà probabilmente messa giù nero su bianco prima della fine dell'anno intorno ai 20-30 miliardi di euro, quindi 16,5 di tagli di sicuro, e poi andremo a vedere cosa faranno. Sì. Se basteranno per la Spagna. La Spagna, ricordiamoci che viene da 2 anni nei quali Zapatero, giocandosi la credibilità e anche per qualche tentennamento le elezioni, poi lasciando prima del tempo, comunque ha fatto 2 finanziarie per un valore di 50 miliardi di euro in 2 anni, ha poi fatto ulteriori aggiustamenti, hanno già ritoccato le pensioni, hanno già previsto al 2027 l'età pensionabile a 67 anni, hanno già bloccato le tredicesime nel settore pubblico, cioè, voglio dire, sono già intervenuti in modo molto più pesante che in Italia. Da noi mi sembra che sul pubblico impiego, lo dico pur avendo massimo rispetto per chi fa lavori d'eccellenza, medici, paramedici, forze dell'ordine, ma c'è anche pubblico impiego non così produttivo, mi sembra che la manovra sul pubblico impiego non abbia niente, cioè le pensioni valgono per tutti, ma la spesa della pubblica amministrazione mi sembra che resti invariata. Comunque, prego. L'altra cosa, l'altra grande differenza che è evidente anche nelle decisioni, Rajoy ha vinto le elezioni e ha una maggioranza molto ampia in Parlamento, ha 4 anni di orizzonte e come gli garantisce un sistema democratico abbastanza, diciamo che funziona abbastanza bene come quello spagnolo, e quindi non deve accontentare nessuno o scontentare nessuno in questo momento, quindi può permettersi di tagliare senza, no, senza andare senza l'angoscia di trovare la maggioranza in Parlamento. Anche Monti ha una maggioranza ampia, il problema è che i 4 anni non li ha, ma soprattutto è una maggioranza che ogni volta, però il governo è tecnico, non è eletto, e questa è una differenza non da poco, lo vediamo anche sulla, forse sul coraggio di certe manovre impopolari, perché anche in Spagna vota il pubblico impiego, anche lì vi saranno manifestazioni, però lui tira dritto, a 4 anni davanti. Grazie Luca Veronese del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Chiudiamo in bellezza, non lo so, ma chiudiamo con Mario Draghi che sta terminando il suo intervento all'Europarlamento a Bruxelles. 2 passaggi vi voglio far ascoltare. Da un lato ha detto Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, occorre ridurre il ricorso alle agenzie di rating, buone notizie per Fitch, Moody's e Standard & Poor's, e poi le elucubrazioni, penso alle banche britanniche, a quelle americane, sulla fine dell'euro costano. L'attività delle agenzie di rating è salita recentemente alla ribalta come uno degli argomenti principali di dibattito in Europa. Sono diventate più forti le voci e gli inviti per una migliore regolamentazione. Recentemente la Commissione ha avanzato una proposta sulle agenzie di rating, proposta che è sostenuta dalla Banca Centrale. Il rating ha un impatto diretto sul funzionamento dei mercati e sull'economia in generale. Per questo serve un quadro chiaro e robusto di norme per ridurre la volatilità, migliorare la qualità del processo di rating e ripristinare la fiducia dei mercati. E soprattutto è importante assicurare la trasparenza delle procedure di analisi e ridurre il ricorso al rating. Il rating semplifica complesse analisi di rischio, ma dovrebbe essere solo uno di molti input per gli investitori e non dovrebbe sostituire le analisi che istituzioni finanziarie e altri investitori devono fare per conto loro. Questo è il passo principale per evitare l'appoggio meccanico al rating esterno. This is the main step towards avoiding mechanistic reliance on external credit ratings. E poi appunto il fatto che le elucubrazioni sulla fine dell'euro costino già. Draghi ha anche detto poco fa che le manovre di austerità, le manovre finanziarie porteranno contrazione, quindi riduzione della crescita economica nel breve termine è inevitabile. E poi ha detto nessun dubbio sulla irreversibilità dell'euro. E infine ha detto attenzione, un nuovo patto di bilancio è essenziale per il futuro della zona euro, noi continueremo a prestare come BCE soldi alle banche per assicurare la liquidità. È veramente tutto per questa puntata. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, vi ricordo domani e mercoledì puntata speciale per lo speciale crisi di Radio 24 con la possibilità di telefonare all'800 24 00 24, ci sentiamo domani. Radio 24, il Natale si sente.